Marocchetto, guarda, si ha proprio, si è trovato il modo per riconoscerlo. Sì, c'è l'altarino. Chi ha Pintelli? No, il segnale, non fa gentile, ma ho visto il segnale. Ah, così. Che bello. Sento mollone, cambio. Ciao Luca. Luca, puoi sentire l'eco? Ciao a tutti, a tutti, tutti, l'eco, ecco, non ho io. Ma già lo sapeva l'eco. Effetto di cosa tutto si fa fare, Luca. Ma il cuocio. Attento, cocomane. Che bel cuocio. Come l'ho chiamato, là, ci sentiamo male dopo, se no è Prusca. Ciao, ciao. Parla quanto cazzo. a me no, non me la fotti, manco balanti camera, vero? Di avvicinamento, ok? Esprimo quello che devo dire, punto e basta. Vengo dove voglio, dal canale 1 al canale 40 disponibile, ciò che oggi tu uso io, quindi no, non c'è un problema. Passo. Più fa una battuta, la prendi per buono, la prendi, cazzo, non riesci a capire quale sia veramente la battuta, cazzo, scherzosa, quale sia la battuta, cazzo, di quelle che possono farti scherzare, farti ridere, farti, cazzo, gioire, cazzo, alle epidi la gente va imbriaghi, ma cazzo c'è, ma cioè, con che cazzo devi vedere tu, con un piccino di 20 anni o con un uomo di 50 anni, cioè non ti capisco, veramente, per Paolo, non ti capisco, veramente non ti capisco, Gianni, non ti mettere i cazzi che non ti interessano, perché tu sei oltre, oltre le cose, io sto parlando con Pierpaolo, cioè non capisco, ogni volta che entro io lui si debba incazzare, almeno faccio 20 anni, mi diceva Otto, un agio 50, è sciocco, un operatore radio dal 1973, cazzo, ogni volta che entro mi rompi le palle, mi critichi, mi fai, mi hai rotto i coglioni, mi hai rotto qui, falli di finire per parlare, fai l'uomo grande, come sei, come ti reputo, mica non sono embriaco, mica devo uscire a lavagliare, ma di attesa la radio su un altro computer ti ha già fatto una battuta, ogni volta mi rompi i coglioni, che cazzo! Posso dire, c'è libertà di parola qui. quindi non necessità di esprimermi e mi esprimo come voglio e come voglio. Sempre tanto va bene, chiaramente sempre canale, però sappi che io ti ascolto, quindi posso intervenire come quando voglio. Questa è la legge, non è che tu me la puoi impedire tu. Ok, vabbè, detto ciò, per Paolo ritiene che io sia inopportuno e quindi non mi posso esprimere in determinate cose, e accetto la sua il suo parere, è quello il problema. Però sappi che io sono sanissimo e quindi non capisco la tua opinione. Vabbè, va bene lo stesso, non c'è problema per Paolo, non me la fotti manco per la borsa del Ballam. Ok, fate girare qua, se voglio vi ascolto. Va bene così, grazie lo stesso del mio intervento. Ok, rimango ascolto. Ciao a tutti, continuate pure, vuol dire che non farò più battute, non farò più niente. Pensavo di avere degli amici in radio invece. Non comprendo nulla. Io direi che sono diventato un coglionito. Ciao a tutti. Sappiate che Radio Manone sopra l'ascolto vi saluta a tutti, non è morto, è sempre vivo. Ciao a tutti. Sono l'ascolto, ma si chiamano. Ciao. Ciao, salve. Non vi vedi, sette amici tutti quanti, cambia e passo e chiudo. No, se qualcuno lo carino ha dato una voce, capito, in radio, però io sono sempre vivo, condizione precaria, ma sono sempre vivo, dai. Saluto da tutti i circolari che ora mangio qualcosa, metto qualcosa sotto i denti, poi se c'è un po' di spazio per fare la radio, la faccio anch'io. Mi sto riprendendo dall'influenza, ciao a tutti. Ciao. Cosa devo fare? È che praticamente abituati un idolo a sentirti, hanno visto che due o tre giorni si è sparita, allora niente, si preoccupa, non è che è andato, è morto. Ci mancherebbe, anche a me. Attenzione, che rivivo diventano i mosci. Anche a me è capitato, ma che ne ha fatto? Tipo stasera ero su 5, ce l'ha andando, infatti l'ha cambiato per te, però io sono Luca, Salvini e Salverio, e io sono io, punto. Sì, ma io adesso quando mi piace a me, non quando me lo desiderassi, capito? Però sappiate che io sono sempre all'ascolto, ok? Adesso fanno da mangiare, no? Dopo se c'è un po' di tempo entro, sempre niente in commentendi, vendi, disegni, brugli, rendi, vabbè. Saluto a tutti i circolari, dai, non so chi ci sia, perché sono entrato da poco che ero a pescare, oggi mi sono ripreso, avevo un po' di influenza, sono andato a fertile e mi ho pescato un po' di oratine con mio fratello. Saluto a tutti, io sono sempre vivo e non c'è problema, quando entro, quando voglio entro e faccio radio e non devo rendere conto a nessuno. Ciao. Infatti quando io entro va entrare e non va rendi conto a nessuno, ok? E se non entro va rendi conto a che uno, non c'è nessun problema. Allora entriamo ai vecchi tempi. Ciao Luca, ciao Ciaverio, buonasera, cambio, avanti Gianni. Ehi, Claudio. Ciao Ciaverio. Comunque Ciaverio, ti volevo dire una cosa, se la gente si è preoccupata tu dovresti essere fiero, vuol dire che a te ci tiene, comunque l'hai presa in modo diverso. Anch'io mi sono preoccupato, ho detto, ma Ciaverio come non si è fatto sentire in questi giorni, l'ho detto anch'io. Ma solo perché ci siamo preoccupati perché non ti abbiamo sentito. Poi tu mi hai detto che eri lì. La mano c'è stata sarà. Positivo già, positivo, prodotti di io, buro. Cioè, ho pensato che stavo male, con i sintomi della febbre, però senza febbre. A brividi, mal di gola, senza voce. Pare che non rendi. Cosa entra in radio? Cosa entra a fare in radio senza voce? Oggi un po' mi sto riprendendo, mi hanno messo il gesso, mi hanno ingessato un'altra volta e tutte cose, capito? A me mi ha dimattito, un conto su una persona, dice ma che non sa vedere, e l'altro che ci corteggia, ci siamo seduti al telefono, capito? Non ci sono problemi, però ma se un altro si mette a parlare così a sproposito. grazie. Saluto da tutti i circolari. Continuiamo così e va tutto bene. Ma voglio dire questo. non dico niente di fare, non è una testa, neanche qua non è una tatuatura tagliata, nessuno. Dovete capire, Gianni, ripeto, non puoi fare, non è a Claudio, non è nessuno. Ma lo conoscete? Cosa state lì a rompervi il coglione? Ma qua mandate un bambino, questi chiari. Fate una cosa, c'è mi dà fastidio, no? Io, beh, dico, mi dà fastidio. Non di quello che ha detto, prendetevi i portati di canale, prendetevi qua via, un cammino di luci, mi siete cazzo in mezzo mondo, ma fregatevene, se non sapete che abbiamo fatto Claudio, anche a me io ho avuto dei problemi con Claudio, e luci, eppure abbiamo risolto, purtroppo così, dovete prendere luci, e anche se ha fatto una battuta io, la verità non l'ho sentita, io lo sono salutato poco fa, e mi ha detto un ciao, un po' così, e ragazzi mi ha dato un bigliato. Di solito mi salutavo come ti comanda, ciao Luca, ma mi ha salutato dopo però, no, un poco, 5 minuti fa, ha detto ciao Luca, e ciao Salvini ha detto, ma prima ha detto ciao, e sta di ciao Luca, è come se mi incantarmi io, stammi da putti, ma fregatevene, ormai lo conoscete come è fatto, e lui, il suo comportamento qua è così, e lo dovete tenere così. Di persona a un'altra persona, punto, non aggiungo altro, non so di fare da nessuno, eh. Ma qualcuno non accetta la mia posizione radio, se non accetta la mia posizione radio, giochiamo in radio, poi giocate in persona un'altra cosa, giochiamo in radio, dobbiamo giocare in radio, io faccio radio così come sono e così come mi hanno insegnato, posso criticare il cazzo che voglio, no, me la butti, butta. Poi se a qualcuno le va bene, non ce n'è di problemi, capito? Io sono abilitato al canale, io ho il canale 40, allora, molto il canale 40, a me, manco Baugatti, ma dall'uno al canale 40 posso esprimere il mio parere come voglio già, quindi non me la fruttiamo, ok? Vabbè, comunque, vi ritengo di non aver sbagliato, non aver fatto niente. Se a voi non vi fa bene che io non entro in radio, dite pure chiaro e tondo. Però attenzione, molta attenzione, perché lo servire sempre ascolto. Claudio, non è questo che noi vogliamo. Noi vogliamo che tu entri e che ti comporti tranquillamente. E chi ti ha mai mandato via? Chi è che ti ha mai mandato via? Quando sei tranquillo, cioè, sei un'altra persona, però quando stuzzichi poi ti devi anche aspettare che ti rispondano, è normale questo qua, no? Tu lo conosci a Claudio, perciò sai come è fatto, ma di Pierpaolo lo conosci un po' meno, perché io ci sono stato anche il primo con Pierpaolo, nel senso che ho subissato un po' di volte, un bel, e questo credo non vuol dire. Però purtroppo è fatto così, ripeto, io lo sapete anche in faccia, perché a voi l'ho detto, mio marito è un rompi coglioni a Baracchino, io ho detto in faccia a Baracchino, ma lo può anche dire lui, è così, mica può cambiare, ma è fatto così, di persona in un'altra persona, come ho sempre detto, a Baracchino è un rompi coglioni Claudio, e questo lo dirò sempre. Ma tu lo accetti e magari c'è un altro che non l'accetta, è quello che accetta. Non sono tutti che siamo uguali. Io per dire li parlo tranquillamente, come vedi, non è che c'è una voce e cose, li parlo tranquillamente. C'è un altro che magari si incazza di più e li parla a voce, siamo uno diverso dall'altro, non è che... però piacerà l'abitudine, è chiaro di punzecchiare, non è che voglio fare processi a nessuno, però cioè, c'era un questo tranquillo e lui è entrato, vedo QSO in sovramodulazione, e non va bene, no, io non accetto queste cose, cioè, quando Claudio è tranquillo chi è che gli dice di andarsene via, per carità, nessuno. A me non mi manda via nessuno alla radio, lo sai benissimo, l'ho sempre dimostrato. Però il fatto che cosa vuol dire? Cazzo, io vi ascolto tutti i giorni, tutti i santi giorni, non entro mai. Adesso stasera è capitato, sono entrato e ho fatto la battuta, beh, questo ho, ma così a titolo scherzo. Ma quando mai una persona, cazzo, dopo 40 anni che fa radio e dopo come te, cioè con te e con Pierpaolo, cioè che sono vecchi cipitù, perché riteniamoci cipitù, cazzo, uno fa una battuta e tutti ci abbigliano, cazzo, se dice, sovramodulenti, scattieni, vedi, Maio, ma finita, va, aio, dai, per favore. Cioè, ditelo chiaro e tondo, ditelo chiaro e tondo, Claudio De Farviero rompicoglione, io lo accetto, perché sono rompicoglione, però mi piace ascoltare parlare e quando è il momento scazziare anche con voi, nel senso buono, che cazzo rompete le palle, ogni volta a gatto mi appavo di motorizzare sempre i matessi cose e poi mi parla male, perché non abbiamo mai parlato male, vabbè, va bene così, va bene a lui, va bene anche a me non me ne ha fatto un cazzo, non mi interessa niente, capito? Non mi interessa niente, no, me ne ha fatto manco ballo anticamera, però se questo va bene, accettiamo. Ma non mi costringete a entrare in radio come entravo nei vecchi tempi, perché se entro in radio come devo entrare, allora voi trasmettete su 10, io me ne vado su un altro canale, non c'è nessun problema. Però non mi rompete le balle, non mi rompete le balle, perché Claudio Salviero lavora negli altri canali come vuole lui, non come volete voi, no. Ok, poi ognuno si prende tutte le responsabilità, io me le prendo, non me la fotte nulla. Quindi va bene così. Ok, d'accordo. Va bene. Fatta pace, va buon signori. Soverici, io vi saluto. Ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Fate pace, non vi vedi. Fate come me. Le passate e chiudo. Ciao. Ciao Lucia, ciao, buonanotte, non sto prendendo con nessuno, io comunico con le persone, dico sempre quello che penso io, rispetto a quello che pensano gli altri, ma dico anche quello che penso io, non è, non sto comprendendo con nessuno. Io con Claudio tante volte mi sono attaccato per sempre perché c'era un modo di diversi pensare, poi ci abbiamo, abbiamo anche ragionato e siamo arrivati alla conclusione, però quando le cose delle devo dire io le dico e lui lo sa, e penso che preferisca che le dica in faccia che alle spalle. Alla grande. Preferisco sempre mi dice in faccia che alle spalle. Però se qualcuno va bene così per me non c'è problema. Va bene, ok. Modulate nel canale 10, vuol dire mi sposto in altri canali con le mie possibilità di trasmissione. Poi qualcuno si arrangerà. Io abito a via Pace numero 83, per chi sta ascoltando. E qua sono. Non ho problemi per nessuno. Ciao a tutti, buon proseguimento di questo, divertitevi e spero di entrare in altre occasioni. Quando non sono cotto, vuol dire qualcuno l'ha preso per cotto. Buon proseguimento a tutti. Ciao. Claudio, non fare l'ultima. Nessuno ti sta dicendo di non entrare. È il fatto che con tutti ti devi comportare come si deve, tutto lì. Adesso poi c'è la questione, boh, non intendo più a nessuno, tutti i fuggiti sono. Non ti faccio due giorni, c'è un questione, ho fatto una battuta all'amico, perché me ritengo di trasmettere in posizioni amichevoli, punto e basta. Poi se qualcuno c'ha cazzo la colla di paglia, o cazzo va sempre, gatto, mi ha rotto il coglione, mi ha rotto il coglione, dica cazzo no, che siamo in frequenza CB e possiamo dire non sempre quello che vogliamo ed esprimiamo, però siamo calmi e tranquilli, là. Facciamo la brava, con i gusti come ti dici, va bene, dai, mi sono rotto il coglione, ciao a tutti, ma avete che hai ascoltato, ciao. Che è rimasto, fa che? Proccio, cazzo mia, no, se ne comprende nulla tutto. Pazienza, vuol dire che la prossima volta mi starò zitto, non dirò niente, ma basta. Quello che dico io non vale mai niente. Ma Gianni, che tutti criticano, cazzo, non puoi entrare con questa radio, ma tu dimmi che cazzo è 27, beh, con la radio monolatta, cazzo, che ha detto che va Guido, che ha detto che va là, beh, lasciamo perdere, non voglio ribattere su posizioni che non mi interessano, cioè io sì, trasmetto con un 140, perfetto, ok, sono l'animatore e non me ne spacco neanche per la boccia dei coglioni, ok, ditemi chi è che il 27 trasmette. faccio per le delle trozzate, faccio per le delle cazzate, come tutti fanno. Vabbè, non è apprezzato nessuno, va bene lo stesso. No, me ne fotti, manco barbo seguito. Però attenzione, metto un punto interrogativo. Il primo che sbaglia paga, ciao. Adesso lui sta minacciando, ciao, per dire. C'è sempre lo stesso modo di fare. No, però non c'è problema. Io sto facendo di tutto, sta entrando gente nuova, si sta ripristinando la 27, cerchiamo di farla andare come si deve, se ci tieni alle radio, facciamo andare come si deve. La gente nuova sta entrando, ho sentito che è entrato uno da Muros, è entrato uno da Pedanita, è entrata una ragazza, insomma, qualche uno si sta muovendo, vedo che la cosa sta andando bene, questo qui io ne sono fiero perché abbiamo ricominciato noi a fare riprendere la frequenza e poi vogliamo far sì che poi si vada tutto in malora, no, questo qui io non l'accetto, voglio portare avanti una cosa per cui credo. Per cui ho avuto sempre nel cuore che dopo che sono stato 10 anni che c'è nel ruolo importante per vedere se c'è la gente, capito? Questo io ci tengo, lo dico con tutto il cuore, che alla 27 ci tengo perché l'ho fatta da ragazzino di 14 anni e lo dico con un portatile dei tre canali e lo sto continuando a portare avanti e cercherò di portarla avanti fino a quando qualcuno me lo interromperà. Se mi hai capito quello che ti voglio dire, quello lì. Ci tengo, penso che anche tu dici di tenerci alle varie, quindi se vogliamo far sì che la 27 continui ad andare avanti, no, cerchiamo di evitare queste cose, questi battibecchi, perché poi la gente scappa, c'è poco da fare, poi diciamo non c'è nessuno, per forza scappa, perché se tu questi battibecchi che ci vuole promettere, Roberto per primo se ne è scappato quando ha sentito. Io me ne sono accorto, non è che non me ne sono accorto, Roberto se ne è andato perché ha sentito che c'è l'aria di bruciata. Vabbè, comunque, riprendi Falchetto. Fermo lì, Falchetto. Fermo lì che riprendo io. Gianni, se non ci tiene veramente la radio, non c'è bisogno di prendersela nella maniera in cui si è preso il Paolo, perché l'unico attacco che io ho da un po' di tempo a questa parte sono Interpol, perché lui sa prendere per ogni cosa. Abbiamo già detto verticale, ci ho già parlato, abbiamo avuto diversi dialoghi, ci sentiamo al telefono spesso e mi dispiace che lui se la prenda sempre per queste cose. E ogni volta rincrimina sempre le stesse cose, sempre se io sono fatto così. Tu mi conosci per anni, mi conosci tantissimo, tu sei datato dal 74, sono datato 70 o 72, quindi faccio radio da diversi anni come te e niente, non ho nessun bisogno che nessuno mi insegni quello che devo fare. Ho sempre quell'adattamento radiantistico che è quello che io porto nel cuore, perché potrei benissimo spegnere e dire basta agli 11 metri. Sai, per Marchio, ti chiedo scusa. E avere i miei hobby radiantistici in diverso modo, però siccome sono nato nella 27, pago la concessione come la paghi tu e come la pagano tutti, e mi piace scambiare le chiacchiere con tutti, purtroppo è così, vabbè, però diciamo che in questo periodo, da un po' di anni a questa parte, l'unico attacco che ho è sempre quello che ho, vabbè, evidentemente non sono simpatico in radio, perché di persona scambiamo diverse idee, ma in radio evidentemente non sono simpatico, però sappi, e tu lo sai benissimo, io posso fare radio come e quando voglio, in diversità anche diverse da quelle che possono essere in questo momento. Non ho nessun problema. Va bene così. Poggiani, cosa devo dire? Non te la prendere, perché per carità, non è che ce l'avevo con te, non ce l'avevo con Pierpaolo, non ce l'avevo con nessuno, però ho fatto una battuta così, e forse scherzosa, forse in un modo un po', però è già da diverso tempo, in diverso modo che con in questi attacchi così anche stronzate, perché per me sono stronzate quando dico beh questo è occa, cioè a qualcuno tocca, vabbè lo stesso, ok, va bene, d'accordo. Le opinioni si scambiano anche in radio e per me va bene lo stesso, ok, però c'è sempre però, c'è sempre però, già tu sei benissimo, mi conosci una vita, se mi dovessi decidere di fare radio 27 la facciamo la mia, poi che qualcuno piaccia, io mi sposto il canale, poi non ritengo di non dover chiedere permesso a nessuno, sono qua, via Pasqua numero 83, sono sempre qua, no, non c'è problema, quando qualcuno ha bisogno di me, sono qui, esco radio, esco post, esco qui, esco là, io esco spesso la mattina, però non ci sono problemi. Sono sempre qua, via Pasqua, numero 83. Se qualcuno ha bisogno di me, non ci sono problemi. Se dimenticate il numero di telefono. Falcone dice quasi Falcone. Falcone, siamo per... No, posso anche l'altro. Non gli ho telefono a casa. C'è pure il pista, ma non lo so perché intanto nessuno riesce a comunicare. È una linea diretta, perciò non ci sono problemi. Ripeto, io sono la mia pace numero 83, per chi vuole, per chi crede, no, da che nascondermi, sono ISL0 di FB, radioamatore del 1993, quando qualcuno ha qualcosa da dirmi, può scrivere la mia email ISL0 di FB, chiocciolatiscale.it, quindi se qualcuno ha qualcosa da dire, sono a disposizione di tutto il mondo, visto che collego tutto il mondo, non ho problemi. Fate voi se vedete voi, esprimo e faccio quello che penso, quello che dico e quello che voglio nell'ambito territoriale della radio, punto. Vabbè, anche Claudio adesso domani mattina ci passo e mi offro la caffeina. Vuoi la caffeina? Non è il problema, sono anche alle 7, io ho 7 meno 20, mi prendo il caffè giù da Lamo e poi vado al lavoro, non c'è problema. Anzi, domani cos'è? Mercoledì, domani rientro alle 3 e poi riprendo alle 4 e 20 e esco alle 6 e 20, quindi oggi invece ho fatto il rientro intero, per intero, anche se qualcuno ha detto che non ero io che stavo parlando, va bene, non c'è problema. Non c'è problema, va bene. Ciao carissimo Savilio, ciao carissimo Luca, buonasera a tutti e due che siete in ascolto, ciao anche agli ascoltoni. Buonasera a tutti, Gianni, per te il microfono, fai girare, io sono qua, mi sto guardando la porta. Per carità di Dio. Ti faccio girare, c'è solo, mi sa che sono tutti andati via, chi è rimasto sul canale 10, vediamo un po', io, e fa che noi due soli siamo rimasti, vabbè, c'è la vi, c'è anche io Gianni, non ti preoccupare, c'è anche io, perché non mi ascolti. Ma non pensavo che stessi andando via, tu non ho capito, non ho capito. No, sono sempre qua, io non c'è problema. Dal canale 1 al canale 40 io posso parlare, quindi a chi non mi piace spegnere la radio, non la più che non. Anche ti dirò che da oggi sono più presente al canale 10, poi sono presente al canale 25, sono presente al canale 38, frequenze che trasmette la canale non c'è una 40, poi di quelle che trasmettono fuori a me manco 40 camere mi ribassa. Vai Gianni. Ehi, ehi, ecco. Vabbè, là, non c'è problema. Per me non c'è nessun problema, lo trasmetti poi tranquillamente, non c'è mai stato nessun problema, lo sai. Però naturalmente cerchiamo un po' di evitare certe cose quando si può evitarle. È meglio che siamo tutti amici, tutti tranquilli, che facciamo le battute per ridere, non per bisticciare. Si deve cercare sempre di andare d'accordo. Secondo me io sono pacifista, mi piace la pace da tutte le parti. A me, io non ho fatto niente, a me non me la fotte nulla, hai capito o no? Di quello che pensano gli altri, di quello che fanno gli altri, a me non me la fotte nulla. Se qualcuno pensa di poter fare radio e comandare radio, io sono il primo a dire che stai sbagliando, capito? Tutto qua, va bene, comunque, da oggi è 17, ok, 17 novembre, Claudio Sparviero sarà presente sul canale 10 e dal canale 1 al canale 40, poi di quelli che trasmettono, oltre al canale 40 a me manco Baugatto me la fotte, quindi che farò da qua, però, visto che qualcuno pensa che io sia, però, attenzione, che trasmetto sul canale 10, trasmetto come voglio io, ok? Che nessuno venga a rompermi i coglioni perché allora mi cazzo forte, punto, poi quando mi dice tu faccia, me ne farò gatto il blatto, io sono sempre ISDR di FB, no, qualcosa servire per la 27, non ho nessun problema, non ho radio da nascondere, non ho amplificatori da nascondere, non me la fotti in banco male di campo, sempre qualcuno ha problemi. Faccia decida quello che vuole, ok? Avanti Falchetto Antonio, noto Antonio, cambio, cazzo, compro e vendo. Per cambio. A tutti i muzzini, capita. Dobbiamo essere uniti, una famiglia, capito? È inutile che apri, cosa dobbiamo a fare? Certo, siamo praticamente un filo, un gatto, e andiamo a bucarsi in luce per entrare, buh? Tanto, io sono Claudio Sparviero, ma tanto mi devo c'è sempre a te, non ho bisogno di vicinare con nessuno, per carità di Dio, quindi se qualcuno ha problemi e se li risolve, io non è che lo potrei dire, a chiamare il ballo con nessuno, avere minacce, avere quello, avere quella. Io sono sempre Claudio Sparviero, intervengo come e quando voglio, perché ho il diritto di parola e di esprimere il mio parere in radio, poi va bene così, ok? Punto. Chiudiamola qua perché non mi interessa niente di quello che dicono e fanno gli altri. Perché poi Claudio sarà presente in radio, dove c'è quel show break, entra. Perché entra, se qualcuno si sposta a me, manco Baugatti non la frutta. Passo, avanti Gianni. Sono la signore, però ci rispetti, io entro, parlo, come, ma esprimo la mia opinione, come, quando, voglio, come, ma però non hai accettato la mia opinione che sta rompendo le palle. Anch'io posso esprimere la mia opinione è che sta rompendo le palle. Tu puoi esprimerti come vuoi, gli altri invece no, ma loro si risente, Claudio. Non vuoi ammettere che hai sbagliato per l'ennesima volta. Io quando sbaglio mi metto la coda fra le gambe e dico anche perdono. Perché a me non vergognami. Però capo questo che tu dici, io mi esprimo come, quando, voglio e cosa. Allora anche quella lì è una mia espressione. E mi esprimo anch'io come, quando e voglio. Tutte le minacce che tu stai facendo, io entro sul canale 11, metto, lineare, bomba, cioè non te ne rendi conto, cazzo, che cose si risvegliano, non esiste mai con un piccinetto, cioè, ma non sei coerente neanche con te stesso, cioè allora tu mi vuoi dire che ti pare ti piace. Gli altri non lo possono fare, però, vero? Ti dispiace se lo fanno gli altri, giusto? La mia espressione è che stasera tu hai rotto le palle. Chiaro? In altre situazioni no, ma stasera hai rotto le palle. Lascio un tono bianco per replicare su Pierpaolo. No, Pierpaolo, stai sbagliando. Forse mi sono espresso male, ma non credo di aver danneggiato la tua opinione o quella che tu pensi. Io ho detto che posso esprimere il mio parere dal canale 1 al canale 40, perché ciò che esprimono gli altri dal canale 40 in poi a me non interessa, e questo è fattibile, punto. Lì ci siamo. Il tuo parere in questo momento è un parere secondo me negativo, perché io non ce l'ho con te personalmente. Ho detto solo che da un po' di tempo a questa parte l'unico mio intervento positivo o negativo è sempre contestato da te, non dagli altri. E questo non deve dare atto, perché abbiamo già avuto 3 o 4, forse 5 interventi negativi che equivalgono sempre ai miei interventi in radio. Forse mi sto esprimendo in molto, molto positivamente, no? Se dice Capim. Ok? Questo è il fatto. Che poi tu dica, siccome ti va giù 50 anni, non so quanto vogliono, ok, va giù 50 anni, non è forse 2 o 3 manco di te, va bene, c'ho una figlia di 22 anni, quanto è tuo figlio, forse più grande, questa è la mia espressione, sto parlando in radio perché mi sto esprimendo, è come che siamo al telefono, è sempre un momento di comunicazione. Va bene, e siccome io mi ritengo una persona grande e matura, dico che tutti i miei interventi incazzate, cioè nel senso che, forse te lo spiego diversamente, nel senso che posso dire una stronzata, posso fare una battuta, tu intervieni sempre in modo molto, molto negativo nei miei confronti. Va bene? Quindi, se tu ritieni che io possa avere dei problemi con te, stai sbagliando. Io problemi con te non ne ho e non ne voglio avere nel modo più assoluto. Lo dico in radio in modo che tu ti ascolti. Io con te non voglio avere nessun problema. Questo è il modo più equo che io possa avere nei tuoi confronti. Siccome mi sono rotto i coglioni, in parole povere, di chiedere scusa alla gente per i miei interventi, e siccome faccio radio da 40 anni e non ho mai chiesto scusa a nessuno, non ho il minimo principio o diciamo la minima non so come esprimerla in modo, in gergo, né radiantistico né amatoriale, chiedere scusa a te come persona. Possiamo parlare al di fuori della radio come abbiamo sempre fatto, ma siccome non ho nessun problema, perché la radio è una cosa di comunicazione, io esprimo il cazzo che voglio nei tuoi confronti, nei confronti di tutti quelli che parlano in radio. Non ho nessun problema, ho detto che io dal canale 1 al canale 40 esprimo il mio parere nei confronti di chi trasmette in radio, ne esprimo anche nei tuoi, ti dico che la tua radio non mi piace, ti dico che tu qui, che tu là, come tu, attento, dici a me, come hai detto stasera, che ti ho rotto i coglioni, ma io penso a te, non avete rotto le palle. Cioè di aver fatto un intervento amichevole, così scherzoso, che tu ti hai preso, punto e basta, per me. Se poi per te è una cosa che io ho fatto proprio nei tuoi confronti o nei confronti di Gianni, allora chiedo scusa. Ma secondo me non è una cosa che tu puoi rincriminare nei miei confronti. Questo è il mio parere. seriamente preoccupando perché non riuscivo a mandare giù niente, dai. Figurati se avevo necessità o cose di entrare in radio, soltanto no, Gianni, deve recriminare, deve darmi una risposta per forza, se non c'è una mondola. La lunga ci ha fatto niente. Capai, un attimino Salvi, che deve aspettare la risposta di Pierpaolo. Un attimino solo. Ho capito che stavi mangiando. D'accordo, un attimino solo, che Salvi vuole la risposta. Allora, sono qua all'ascolto, sono entrato lì per salutare, quando è non c'è problema. Sono qua di ascolto. Ok. Io voglio la risposta di Pierpaolo, perché sto parlando con Pierpaolo, non è mi prendi nessuno perché sono sopravvuto. Ma l'ho fatto prete. Non mi interessa, io ho parlato con Pierpaolo, Pierpaolo mi ha fatto una domanda, mi ha chiesto delle cose, io voglio la risposta a Pierpaolo. Quindi Pierpaolo esige la risposta a ciò che tu mi hai chiesto. Ok. Di questi livelli che sono dei discorsi che possono essere molto partecipi a quello che giustamente la mia cazzata, come ho detto poco fa, da questo. Posso aver detto una cazzata, ma era, credimi, in forma così amichevole, no? Non certo da profferne né a te né a Gianni né a nessuno. Questo è il mio parere, così, caro Peppa. Nessuno ti ha detto che tu possa avere le possibilità di fare e di fare quello che vuoi. Questo io non l'ho detto, non è uscito dalla mia bocca, perché me ne guarderei bene. Anch'io non sono opera di Spirito Santo, come voglio dire. Io trasmetto 27 con un apparato amatoriale, cosa che non posso fare, lo dico apertamente, come ho sempre fatto dal 1973 oggi, non ho più voce, perdonatemi, però sapete il problema che io ti giuro, per Paolo, che il mio parere nei tuoi confronti è tutt'altro che positivo, non negativo. Però il fatto che tu ogni volta che io entro te la prendi con me per cazzate, per cose così, che mi vieni per la radio, questo mi dispiace veramente. Io ti saluto perché non ho più voce e sono veramente non... ringrazio per questo, con per quale avremo modo di parlare in altre occasioni. Va bene così. Vi saluto tutti, un abbraccio a tutti e buonanotte. Va bene, ciao, buonanotte, ci ascoltiamo un altro momento. Ciao, ciao. Falco. Grazie. faccia quello lì, su un'altra. Vabbè, allora, non è che si è aperto di nuovo il sacco dove ci sono arrivate all'allevamento? È probabile, non lo so, però vabbè, ma aspetta, non sembra ora di allevamento. Sicuramente hanno purificato, adesso il periodo che stanno crescendo è pieno, ci devono essere bianchi. Cioè siamo dovuti andare perché c'era mia figlia piccolina e quindi c'era i papattacci, ci siamo andati. Però c'era la farola strage, già, c'era la farola strage. Ecco. Me l'hanno detto, aspetta un attimo, vai, vai. Beh, signori, io URT da parte mia, dai. Salutori a San Pietro, salutori a Pier Paolo, salutori a Antonio, salutori a Gianni e salutori a tutta la volta, dai, buona notte da parte mia, ciao ciao. Ciao ciao, Falco, ci sentiamo avanti per... Ciao Falco, buona notte. Tua. Quello deve essersi addormentato. Avanti, Salvini, per salutare. Ah, pa, saluto il Falchetto, già ci sentiamo, dai. Adesso che mi sto riprendendo, piano piano già, non vuole piacere farmi sentire senza problemi. Infatti ieri sono entrato già, quando ieri al lunedì. Ieri domenica sono entrato, c'era Roberto e Salvatore, mi chiedevano loro come ero. Mi hanno augurato una buona guarigione perché non volevo sentito. Buonasera San Verio e buonasera Campia. Ciao Antonio, buonasera anche a te. Di cosa con i brividi, ti mi sa la febbre e febbre non le avevo. Si trova solo con un legno. Sapete che sono veloce, cazzo. Ripeto, prendetevi un bel caffè, levate le aghie, amari, puro due le aghie, obblighi. Ma lo carino è lungo, se per fare il tuo, ti amassi con i gas, ma sempre bene. Vicina. non abitava prima lui, faceva il nulla, la madre però. Ah, la gava. Allora, ma che casino sono scendi da che sono dai, eh? Vabbè, ma lasciato lontano sta fatto. No, no, assolutamente. Ah, guardami, no, esci con la retta già, io non ce la faccio lanciare. Ma l'ha lanciato, fatte? Beh, c'ho il gesso, non lo faccio destro. Non tengo manco una mo. E vabbè, lo vuol dire che vicino a me, no. A tua, vuol dire che vicino a me, io c'ho un Intec, è come un 48, ha giunto un dito. Ce lo conosco io. Vale, trasmette anche a me, però è quello che è. Capito, l'altro ce l'ho da motore e quindi niente. Break, buonasera. Buonasera, anche lì, e Beatria. Mamma mia, ho la fitta, scusate un attimo. Buonasera, buonasera. Salve, comunque quell'affare là, siamo andati e non è quella 2, ci aveva un altro apparecchio, mi siamo andati con l'attarino, glielo ho chiesto, me l'ha fatto vedere, non era quello lì, a 2 non ne ha, ne ha uno solo, mi dispiace averti deluso. Io c'è problema, c'è detto che non era quello il problema principale, capito? Quello già lo trovo, è un altro problema che devo risolvere, è molto più, più grave. Il problema è, sapete, molestia di nuovo, non sapevo che quando schiacciavo era portante troppo se ne scava. L'ho messo di due. Buonasera, una volta, sapevo io. Guarda che fra due giorni mi arriva il doppio, l'ho fatto, ho cambiato tutto quello che c'era da cambiare. Sembra perfetto. Non la bomba esce nulla. Vabbè, noi c'è la modulazione originale. Dagli ore 9. Cosa gli do? Ore 9, gira un pelino. Oh signor. Ma cosa vuoi? Le bombardate. Mi fu. Non ci avevo mai scritto così. La bombetta la fai, io la volevo sentire da qualcun altro, perché la volevo sentire a casa mia, quindi tu ora mi devi dare il piacere di sentire il mio apparecchio in trasmissione, capito? Perché un conto ascoltare tre pelusci, e l'altro sentirlo a casa mia, in una stazioncina, sentirlo da un'altra antenna, capito? Mi fa piacere, pure se mi stai dicendo che risolvi i problemi, io dove, in bocca non ti bacio, perché non sei molto tipo, ma in fronte sì. Gianni con le tonalità a 1800. successo. È un presidente. E anche il numero di altri mi si è trattato bene, ma è in particolare. Yeah. Gazzisia sono in condizioni precarie davvero, sì. C'è mica di me, ragazzi, c'è 60, no? Fate 60 un del fatto, bubu, a te che ne fa già le storie dando buon pavo. Allora mi lascio più la stufa. No, aspettami un po' altri, è proprio che io la sapete le occhi. Vai Luca, tu scambiati il pattuglio prima di parlare. Vieni, ma ci stai domani che Claudio tira il B508 con la 6 scatti a 2.20 e mi fate la giamba, c'è un video. Io dico, ma il capo come si scioglie? Dove l'hai registrato? Si scioglie il capo? No, non si scioglie, ma ci ha fatto già il proprio Claudio. Quello è proprio per le 2058. 10 fatti di Grescio, 6 c'entrano in AM, 750, 850, e vanno a tirare modulati, picco picco. Bene, aperto, ma sì, domani ti ho creduto, va, così ne fai bella, c'è ma c'è il video, e fate pros. Ma aspetta, ma devi scherzare adesso, ma se ti ricordi, tra, oggi avevo un altro di Luigi, mi sa che da qua, 100 di più, 150 qua, non mi ricordo 100. E dico tu, ma papà, se sono tu e Franco, non me lo puoi girare, perché mi ha chiamato la zampa, vabbè, poi tu me lo toccavo, perché... Se tu tendi a fondo scala, faccio nome da capo. Un calcolo aveva a fondo scala, c'era 60. Tu hai un pelo più forte di me. Poi la prima domanda la zona un semplificatore. Ci ho stato io, sappi a Marco Giuro, io lo solo lo sapevo. Allora, mi trovo a fare un bello splendido. Facciamo così, se tu mi passi da Claudio io non entro più in radio. Facciamo così. Cazzo, ma di quando Luca, cazzo, mi baciano che fa? Fanno gli altri per fare casciara, ma non qua, qua dentro la mia. Salve, passa un attimino al 40. Tu fai delle guerre a 10 metri di distanza con mezzo chilo qua. Allucinante. Siete a 10 metri di distanza, lasciate perdere i mezzi kilowatt. Noi passo un attimo a 40 e dico una cosa di dove potete, ma se ti va bene mi dici ok, altrimenti non lo faccio neanche arrivare. Ehi, no, il discorso è sempre che lui mi mette 3 zeri, io ne metto solo 2 di zeri. E lo fanno fare solo a parte. Per la carriera, bongo, e poi caglia di muto, gas. Ciao. Vabbè, faccio fare così più loro di questi giorni, va. Questo te l'ho detto, mi davanti a tutti quanti. Ci da Claudio, io non accendo più malacchio. Bene ti va. Ehi, adesso non accendo più malacchio. E che non puoi fare queste figure. Ecco cos'è. Vabbè, lasciamo perdere, va. Io non accendo nulla, può fare la Luzzi. La Luzzi guscia. Adesso è l'età giusta, Giulia. Prima c'è una di antenna che ne fai una pizzi. Da voi può attaccare che cosa. Due attimi da vivo, lo passo. Ciao, dove va avanti su 40. Ma è antenna pizzi, ma che sentiamo fatta la mia antenna? Ah, come sai, io ti gioco, ce la gioco l'antenna, io la smonto. C'è la tua, e tu per me, questa è la mia casa che oggi sta. Ma di tutto, di cavo, di palo, di tutto, là. Lascia più lì. Aspetta, stavo su 40 che mi stanno chiamando, là. Ma poi va, là. Là, riprendi, là. Io riprendo per sorridere a tutto il balavà, però sempre stare attento che a 2.10 più di Luca, non pensare che Luca qua arrivi Cazzolzane, tu sei 60, Luca 42, 43 modulati. Se ho il mio amplificatore, che è un però 27, perché è l'unico, anzi ne ho due, provo quello a doppio che è il B508, sono casi dubbi, se lo posso assicurare, perché qua la casa è Luca con un lignare della minchia, ho visto un segnalone a 60 pieno, modulato per DB, quindi si può dare fastidio tranquillamente. Se non ti crepa le raggiungate, siamo lì, Gianni, le prendi per avanti. Beh, stasera non esserà. Via. Questa mania di la bottenera di la gola. Canti lo quasi va a pagare 300 euro di luce, ma con che ti collega a qualcuno vicino. Aspetta, vabbè, comunque, il palo sarà cazzo vecchio il mio, allora di solito è buono, l'altro, quel palo lì l'ho recuperato già, la via grazie da retta, dove andavo le case vecchie, poi ci vado con il vigato, e vado a questa bomboletta, poi sai con l'acqua si è riavvicinito. Poi l'antenna è. L'antenna al capo sono nuovi, c'hanno un anno qua, quanto guardi, un anno e mezzo, boh. Con 100 watt, solo l'anno. più, quindi arriveresti sicuramente al 55-60 pieno. Poi se la modulazione è chiaramente è ampia, che non porta via nessuna cosa, sia l'indivisione delle macchine contro tu sia un chilometro da me 800 metri, mentre salire a 500 metri, 400 metri, linea d'aria, quindi, ok, Gianni è 9,45, quindi in linea di massima tu 42, 41, siamo lì, Gianni, riprendi. Sono il sovrappensiero. Siamo rientrati, Iasiano, eravamo un attimo nel 40. Salvo Rigoletti che Biglietti da Claudio 85 watt, 90 mulati, chiamata di varia. E mi ha detto a me, sì, fondo scala, sì, e faccio 2 watt. Ma tu, come bulichi, sì, se sì, io metto 200 watt, lui, come ti può passare? Ma così buono 3 kW passa. Ok, com'è il discorso? È fuori luogo, non se ne può fare di questo discorso. Se parli con le attrezzature, va anche bene. Però se lui mi passa a me da te, no, non può esistere. So che c'è gente a massa che vuole entrare. Sono 30 punti S, 3 punti S e quindi andiamo su partigiano invece sul 45 di portante è già visto Gianni con le sue possibilità o medie possibilità così chiamate oltre i 50 watt Gianni è già sulla D. Se Gianni dovesse mettere un amplificatore oltre 100 watt lo ammazza tutti a te, a Franco, a Luca e a Vivo Ma. Ma comunque avevi che cose non può come piace, allora la fatti nulla, tanto è vero che c'è una nuova Intec, chi dà di dirattamente tra di 4 watt, figurati a me ci me la fatti a che cosa, di passare a Luca, di passare a Gianni, è Luca che mi cito con questa cosa, ehi cazzo, buon guidare, mi ammazzo, capito, a me non me la fatti nulla sinceramente, né se mi passa a Guido, né se mi passa a Guidarlo, io muro, ma pochi mi vuole sopra modulare, l'importante è che non me la bisogno, come sopra modulare. La sinistra, la stufetta di la giucuta in macchina, dunque c'è nessunissimo problema. Chi mi ama mi ascolti. Sono tutti sotto, per me sarebbe problema le orecchie. Ma bugnettone, vai. Ascolta, ma gli ha attaccato il tuo apparecchio. Non l'ho fatto vedere. L'ho fatto vedere il cane. Cosa è il bugnettone? Bubu, vabbè, là. Se ci sono una cosa, una chiavica. No, come, spero che ne sia. Sapete, sì, ha attaccato... attaccato quello di... no, il mio, di Antonello, è questo qua. Che c'è quel sacco che fa cagare ai casi cani? Il sacco, il sacco è un bip abortito, c'è. Cioè. Se ne vanno, un chilo a portante, un chilo a 10. Tanto è feo, bubù. Finocchio di Claudio, le prendi? Ciao, avete bigliato le voci. Le comi che stanotte ci sono, no? Esci che chiudo, va. Vai, va, riprendi. Non è comi che tu stanchi. Riprendi. A me devo riprendere, se c'è due giù, che lo sa anche lui. Al costo, non lo sa, non faccio parlare. Non ha fatto nulla a me. Al costo, stanotte non lo faccio parlare. Sì? Ma parla di rogo, anche vieni. La manzo qua, il dominale, a te la fare ficcio, quello che vuoi metto, come frega niente. Ha incassato il pompuglio, eh? Sì, già lo sa anche lui, già. Quando mi stava pensando a fare la parte, siamo mattati. La ciuccia. La guerra, la morte, la polizia. Se ti devo dire la... Dai, l'attacco, già. Non l'attacco, già. Adesso, mamma, ti faccio finire. Dai, dai, dai, l'attacco, via. Via, va, va. Gianni, dove li va, Gianni? Pompone, vado a vedere stasera. Oh, bello, bello. È meglio che spegni il tuo barchino. Sono i geniali, oggi, no? Guarda, siete arrivati tipo lo zero, Ma io ho messo lo tre, amato! Niente il baracchino che è pericoloso. Attenti, Guido, che tra gli occhi ci ha portato Guido e te lo belluga, ci chiudo il baracchino. Ah, polacco! Rispondi! Guarda che tu vuoi, bugnettone! Cazzo bugnettone, dai qua! Rispondi! Gracias. centesimi. Eia, attenta la mano di una vendola, tu. Ma c'è un mancaglione, ma non vado. E avevo un'idea, che è impossibile. Gianni! Accudire che corso! Gianni! Grazie Gianni, già c'è la gente, Madonna! Oh, domani tutti in campagna con Pugno, mi disegnata! Ma io, se cade la tavola, voglio capire se si ripresa. Io sono limite, lo sai. Io ho le 7.000 lire, oh Gianni, infatti te l'ho lanciato qua. Già. E mi astengo. Un astimio. Se mi astimi, già. Già, la cena, no, è il gergo che lo legge. Non la cena, non la cena, non la cena, non la cena, non la cena, non la cena, non la cena, non la cena, non la cena. Sì, forse sono l'unico astimio. Già, ma oggi è sabato? No, non è sabato, mi pare martedì. Non è sabato, è sabato. Non è da Coca-Cola. Dopo, un pugnetto, non è da Coca-Cola a me. Un pino tra mani. Coca-Cola. Un lascio mai. Dove vado a lì? C'è una porta anche a San Diego 9-5 forse, no? Io anche il mio padre, vedo il mio padre, mi ha detto che arriva. È quello, Santiago 8, quello a porta 8-9, ma è quello che mi dà che mi dà frene. Oh, le bomboni, per carità di Dio. Se non vorrei che batte, facciamo a tagliare le bermuda, non lo può. troppo per leggere. Comunque, Andrea, Gianni, io per Ruth. No, non so quello più rubo io. So quello più rubo, ma... Tra un po' mi accade, le ho più rubo, non che ne vuoi. Ma posso riprendere un attimo, sì? Vai, posso riprendere un attimo? Ehi, ya, vai. No, saluto il circolare a tutti, io sto chiudendo. Ciao, ciao. Salve, buonanotte, sono di lotto. Avanti, Flavio. Cazzo, salve, e stai chiudendo così? C'è Gianni Perrotti, c'è Panettone, aspetta due minuti, no? Vai, Andrea. Ti anche io vi saluto perché c'è un gergo sburrile qua, non è adatto. Vi saluto tutti quanti. Ciao Pitbull, mi sta musicando la gamba, saluto a tutti. Ah, un Pitbull c'è. Un cane mi sta musicando il polpaccio, ciao a tutti. Per me è una pantera. Ehi, vabbè, saluto a tutti da me. Ma guardando le iene, il cazzo mi sta stressando, là. Ciao a tutti. Ciao, ciao, Savic, ciao. È finito il rito. Comunque l'avete fatto dire un bene, là. La valla è stata vostra. Ciao, Pupu, e non uscire la sera, che non ci siamo mai. Ok, no, ti avevo chiamato perché siccome so che hai un cari carissimo amico, molto stretto alla telecomunicazione. Non ti dico, sono già capito. Mi serviva di quel cavo, anche se me lo compra nuovo, adesso di non lo paga meno, quel cavo per telefonico, non a casa anche intera, che fa una linea dall'ufficio di giù all'ufficio di su a Castelsardo, e quindi a te si chiama Genova se riesce a darmi notizie buone. Perché ogni volta lo fa di giù, volevo salire su e male male, lettere le fax, quindi non voglio portare su, però voglio mettere una linea, sempre con lo stesso numero, con la ciabatta, portarmi con i due attacchi, maschio e femmina, portarmelo su nell'altro ufficio. E quindi ho chiamato per quello, capito? Volentieri, ma non ti posso aiutare, perché io quel mio amico l'ho perso di vista da quando si è separato dalla moglie, si è allontanato da tutti e non lo vedo più, si sono separati. Minchia, questa notizia ha voluto cognettone, perché quello che era venuto con me a mangiare la pizza. Cappatone, lo si sono separato, avevano l'udietta proprio a Vampini. Forza, aspetta, niente. Porca puttana, questa è una cosa molto... Mi dispiace. Mi dispiace perché l'ho conosciuto, insomma, è una cosa che non è che fa piacere. Va bene, va. Pazienza. È la unica chance per prendere la mano, perché sono contato che fa molto, molto caro. Ok, dimmi Pugliettone. Vabbè, Pugliettone è fuori con tutto, cazzo. Ancora vivo? Certo, sono vivo, cazzo, sono come te, no? Adesso, che devo fare? Niente. Nulla. Comunque, ti ricordo che in quei tempi, l'unico che ci faceva la pugnetta carbonata addirittura. Falcone, se ti ricordi bene. E tu, ma ci avevi detto? Beh, io che la prendevo in culo era ascoltato. Ma stupida, il culo è anche un problema. Io ascoltavo e fatto, non c'è problema. Mettimi ciucucciù. Ma tu devi fare un iettone che vai a dire, ciao Xavi, un bacio grande. Mi stiamo a fare il culo con un bacio grande. Ah, vedi che è ancora. Oh, belli belli, sono contento che vi senta lì, vi va, sentiamo lì plus. Spero di sentirvi allegri così alle plus. Ciao di qua, ciao Antonello, rinominato Pugnettone, ciao Claudio e ciao Gianni. Mara mia, buonanotte a tutti quanti, mi spendi Gianni. Ciao, ci sentiamo, buonanotte. Cavagà, ci voleva dopo tanto casino. Ci vuole anche un po' di allegria, va. Andare. Ogni tanto già fa bene. Va bene, io mi sono rosso perché ovviamente mi stanno a letto, devo mettere il pigiama, ma mi lascio così così vestito, adesso mi tocca mettere il pigiama, la drumindo. Va bene, ci sentiamo a domani, alle prossime. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Avanti, devi ricordare. Insieme a te su Rosario. Ciao Gianni, ciao Adriano, buonanotte, ci sentiamo le prossime. No, ma se c'è niente, non ti preoccupare. Le cose si chiariscono in radio senza nessuno si ribaltano e si ribaltano automaticamente. Non proprio da parte mia e non c'è nessun problema. Io come mangio parlo, quindi esprimo e dico ciò che penso e ciò che faccio automaticamente. Ok, così sono e così rimangono, posso essere automaticamente esplicito e pugnettone come Antonello nell'automatismo così. praticamente lo paragone a San Pietro. Buonasera Massimiliano, ben ascoltato e perdonami, sicuramente sì con la signora, sì con abbracci. Caparroggio, dai, già si ha chiuso le orecchie. Ma infatti mi ha detto, non c'entrare in questo calare porno. Ma voi non è colpa mia, c'è un frocio, eh? Appunto, qua, chiudi, perché ci sono i paracune, ci sono i trans. Fede, a te che va. Senti sta cosetta, stavano ti mia mamma e sto tornando. Coca-Cola. amico di Savanna. Ci metteva la portata quando parlava. Carlo, cazzo, sempre la butta con la maniera, sempre la butta. Come freghiamo le ragazze, cazzo, sempre metteva la portata con gli ottoni. Ma ti parlo che ero giovane, mi avrà avuto, quante ne avrò avuto di 30 anni? Questi che parla, cazzo, però non ha messo portata in vita sua, un filo se non vera. La bagaccia di Coca-Cola, grazie, io portate voi. Oh no. Ah, è grata. Io la frequentavo dove eravate voi perché non ci avevo frequentato la produttore, però cazzo quando lei mi accorgi di avvertito che ci vedevamo fino in pornografici, cazzo, mamma che ce n'è. 5 contro 1 fu la guardia. Vai, ce la fede lì, se metti più parlate con gli altri non si ne ha lo sai, che cosa stai dicendo. Non ha fatto niente, ma quella gara l'ha fatto. Guarda, Mitja, Mitja. Ma fatto credere che questo di nuovo parlando. E cosa pensi? Ah, tu! Non ti vedi dormito? Ma che c'è proprio una tormenta? Non ci sono le lanze, cioè si scende. Sì, così in testa. E così al baracchino, così si sente bene. Ma è confuso. Che leggiamo? Marco! Marco! Con Andrea Baricone o con te, e sono così davvero. Allora purtroppo in brutta. Se parli poco a poco, voi siete per la fatto a conto del bu, si offendono, non c'è più niente da fare qua, la verità. È cambiata la frequenza, quello vuoi rinnovare, non è noi. Non si può più scherzare, cos'è di noi? Scherza lì, si scherza. Okay. c'è un po' di patatracchi, però dai, si va avanti, non può. Ok, vabbè ragazzi, dai, mi ha dato un po' alto, anzi mi ha dato il 20, c'è un po' male, manco i canoni, mi saluto, grazie alla compagnia, perdonatemi, perdonatemi, perdonatemi, ripeto, mi lascio stasera, perché ho ascolto, non è successo niente, io ho questo modo mio di fare, questo modo mio di andare in radio. Accettatemi per quello che siamo, ma siamo buttati nella mondezza, non so come procedere. Ciao Gianni, ciao Antonello, ciao Pierpaolo, se l'ascolto, ma non credo. Magari Anna mi sta ascoltando. Un abbraccio, ciao Antoni. Chi c'è? Luca, Luca, Adriano, Savilio, chiunque fosse su 10, dai. Guardate a tutti, ritratevi tutti salutati da quel grande, grande, grande rompicoglione di Claudio Spalviero e amici a mia Coca-Cola. Senti un culo di mai, ce l'ha quella. Ciao, pompa, pompa, pompa, e ci sentiamo domani. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo davanti a lei. Buonanotte a Castellari, non ci mai salvato tanto. Era quella campagna, scendi lì e non ti diventi più pettino. E pensa, Iana è buona. Vuoi regalare Coca-Cola, però? Sì, si porta lì una base di latte, voi se ce la fai, è stato ormai non si funziona più, te lo sai perché. È un Viagra. Ah, è stato Viagra, con quello che segno non funziona più con Viagra ormai. Ormai è andato male quella cosa. Si vuole il gesso, agliola. Come faccio a parlare? Sai che so cosa è successo, non sappiamo se suo medico o Claudio, quindi so cosa è successo. Ah, che affagato. Ma il medico si deve fare i suoi, non può dire i segreti professionali. Dico che siete siamo agliolati. Ah, non di più, sapevo da suo medico, e sono la stessa segretaria. Pensate, se avevo messo via che era una tazza, che se era andato al bar, e lì si diceva, ho fatto la via, ragazzi, io di gigante, ragazzi, per carità di Dio, manco con la segretta italiana tagliata, ragazzi. Lo sia. Allora, e si è dormito anche, ragazzi, si è fatta rigida. E siccome è di cose, è di Burgos, un attimo mi si è rigida la gamba, mi si deve essere amica, vai, ragazzi, qua. In quel, lo stesso medico ce l'abbiamo con cosa, mio Gianni, con Mario Figine, il famoso Mauraccio, figurati. Anche il dottore c'è. Dottor Rai? Rai, ma quello con gli occhiali. Claro, tu sapete che Mario Chini quando ha iniziato a frequentare il dottor Rai, che se voleva la balera, lei per correndo a punta scopo. Già me lo ricordo, la balai. Occhio nudo, casomai. Occhio nudo, cazzo, anche con una vista che imbara la pizzola, cazzo. E voleva la balera correndo soltanto a punta scopo, cazzo, la balai. Raccontavano che una volta erano in moto e siamo caduti a scala di giocca, ma non fossero trovato il tesoro. Un'altra volta mi ha raccontato che praticamente hanno trovato un nido con delle uova, le ha messe dove si mettono i ferri della Vespa lì. A un certo punto una scala di giocca si è cipi per tre sedine e erano andati vicini già a scala del motore. Una volta ha detto che ha bisogno di meteorite farete. Una meteorite scendendo dal cielo con una certa percibilità, ma sono riuscito a imbroccarla e mi era gratuita, la giubilata, un collisionista mi ha dato 7 milioni. Un meteorite. Perché mai la pigliata della giubilata infuocata? Delle poche balle che mi ha raccontato, il centro del tesoro è stata una normale che ha fatto un buco con la base, ma come sono credo che ha fatto il tesoro. Ci muori, dopo voce ha fatto io. Ma non è mica ne raccontava a vivere, poi era paurato. Mi fa sapere che si chiamava la mitraglia. Grazie. C'è quell'altro che è venuto di accoglio, Antonio. Balle che racconta lui, perché è evidente il fatto che questa gente qua mi trova anche male, perché non riesco a capire a volte quello che dicono, e mi trovo male, nel senso che di ripetere mi sembra brutto. Ma lui ci faceva capire, uno era di quelli che solo c'era da fare evidentemente con una tonalità molto alta, e quando parlava che sollevava la voce sentiva lì che mi fumavo, tu amico, beh Andrei, se ti capisco lo stesso, ma mi piano ti capisco lo stesso, perché voleva far sentire anche gli altri, capito, la sua cosa contro la mala sanità, secondo lui. Poi io non so se è vero, perché sono malizia, quindi non è che ne ho creduto più di tanto. Secondo lui dice che l'hanno operato, però non dovrebbe essere operato più gli altri, mi ha detto, ma vabbè, allora di un lato, perché sono entrato a fare questa cosa, questo esame, quindi l'ho mollato. Poveri e né brutti né bitti, tutti i capi si passano a consumare, per carità, ma si vecchia. Ma mi sa già Luca, Lucio, quello che lavorava alla cosa, non tanto mia figlia, la teoria mi ha fatto un po' così, andata a funerare, eccetera, tutte le sue amiche, la McDonald's, tutte le piccole di poco poso, tutti i suoi amici. Lavoravo lì da Massimiliano Ciria 26 anni, un tumore al cervello, ma come cazzo si fa? Lo sapevo. Praticamente parente di una commessa che lui mi ha detto che lo trovavano a casa di notte, si alzava e si metteva a parlare con la testa appoggiata al muro, lo trovavano così, non capivo più un capo, e era pizzaiolo. Lucinante, allora lui era la mia figlia, Daria, frequenta molto poco tempo, quindi già dall'anno scorso, è iniziato per i sintomi, c'è un giugno. Adesso già ha iniziato a far male, dice si abbandonava la pista facendo le piste, non voleva bene, gli aveva la testa, scusa, sono fatto questi esami, queste cose, hanno scontrato un tumore al cervello, ma poi la prima volta ha iniziato un po' così a rimettersi a posto, poi ha iniziato di nuovo, mi stava facendo l'aria, aveva gli stessi sintomi, l'hanno rioperato, era già tutto bene, non aveva 26 anni, cazzo, non come si fa, mamma mia, per carità non ci voglio pensare, cazzo. Beh, questo che era morto non lo sapevo, però ne stavo parlando con questa commessa, che era un amico suo, e mi ha detto questa storia. Ha detto che addirittura è praticamente il cognato di quello che ci porta esattamente la roba di Gran Galana. Sì, mi fai così, invece un casatore, questi sono quelli di Via Sassi vicino a te, che tra l'altro sono anche parenti di mia nonna. Sono di Via Sassari, via Caravaggio, quelli da lì. Sono lì. Sono quelle persone che stanno lì. Più o meno sono tutti in quella zona là, dove tu vai il lavoro. Tra Via Sassari, via... Quelle zone sono dietro le sasse per andare alla circolazione. Questo via Caravaggio, via... Quelle zone lì. Ma 26 anni, cazzo, già 26 anni, come si fa? Cioè non aspetta nessuno di Gesù Cristo, ma deve arrivare, ti arriva e basta. È una lotta, sto cazzo di tumore, non si sa dove le cellule morte praticamente agiscono prima sulle persone giovani, se uno è anziano sono molto lente, prima di espandersi sono molto lente, invece se una persona è giovane, che dovrebbe essere il contrario, perché una persona è giovane reagisce meglio, invece no, è tutto il contrario. Nelle persone giovani le cellule camminano prima. E praticamente si rubano tutte le nutrimenti delle altre cellule e si, praticamente si espande quando c'è il tumore. Io che non posso andare a trovare la mia sorella perché c'è quella ragazza di 30 anni che ha la febbre A, quell'influenza A, quella pericolosa, e i dottori, diciamo, c'è la mascherina e anche gli infermieri, ci hanno detto di non andare, di evitare, specialmente chi ha figli e chi ha malattie croniche, di non andare perché è possibile il contagio. Quindi adesso stasera ho telefonato, mi ha detto che questa ragazza ha migliorato, che se vogliamo andare possiamo anche andare, intanto diciamo che l'hanno isolato, là, però sempre i germi ci sono nell'aria. Non sono attenti già, non sono attenti perché questa influenza, è molto molto pericolosa, ma c'è uno di castigliano, c'è uno da uno, non sono attenti. Io ci ho messo a casa, ma tu l'ho sentato uscire, ed eravamo un po' così. Niente di preoccupante, bisogna stare mega mega attenti, mega. Ma ormai non hanno 25, cazzo, sono domani, non mi alzo, devo uscire a riposo, eccetera eccetera, ti lascio compagnia bugnettone, mezza bugnetta, riprendi, io chiudo, me ne vado a nanna, ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Tanti anni, nel 2004 avevamo colleghi molto, saluto molto.